taxi, siamo sulle 10.000 persone. Siamo arrivati in stazione e come tutti gli altri, tutte le altre volte qui a Pisa non abbiamo trovato nessuno a bloccarci, quindi siamo entrati tutti in stazione e ora stiamo occupando la stazione tutti. Saremo 10.000 e siamo intenzionati a rimanere qui in stazione. Nel frattempo gli studenti medi sono andati a bloccare la FIPLI, cioè la tangenziale che collega Pisa, Livorno e Firenze, e i ricercatori sono saliti sul tetto dell'INPS. Però ecco, diciamo che sia come medici che come universitari stiamo bloccando tutte le vie di accesso principali a Pisa. Dove però la reazione di chi è preposto all'ordine ci sembra abbastanza diversa. Senti... Sì, decisamente. Qui non abbiamo trovato alcuna resistenza. Anche in stazione c'erano 10 poliziotti più o meno che naturalmente non hanno potuto minimamente bloccarci. Quindi qui la situazione è assolutamente tranquilla da questo punto di vista. Allora, ascoltami, l'unica cosa è che presumo che non si esaurirà in breve questa occupazione, ma c'è l'intenzione di arrivare finché non verrà votato il DDL Gelmini? Sì, noi siamo intenzionati per ora a rimanere in stazione il più a lungo possibile. Poi qui siamo imprevedibili, quindi se non verremo bloccati eventualmente penseremo ad altre azioni, ma per ora credo che il nostro obiettivo sia rimanere il più lungo possibile in stazione e bloccare completamente la stazione. Benissimo, se non hai altro da aggiungere magari ci riaggiorniamo tra un po', tra un'oretta, così. Perfetto. Ciao, grazie. Ciao.